Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa qui in studio, e ci sono Michele e Roberto Giava in regia. Buonasera, e in collegamento ci dovrebbe essere Alessandra. Buonasera Alessandra. Sì, esatto, buonasera Annalisa e buonasera ragazzi in studio e a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera un giro di boa decisamente sull'onda dell'attualità. Oggi è il 17° giorno delle proteste anti-regime in Egitto. Alle manifestazioni oggi si sono aggiunti scioperi, migliaia di lavoratori di varie categorie sono scesi in piazza per chiedere più trasparenza e migliori condizioni salariali, si sono uniti ai manifestanti che sono in piazza, piazza Tahrir dal 25 gennaio, che chiedono l'uscita di scena del presidente Hosni Mubarak al potere da 30 anni. Al momento ci sono notizie contrastanti e non confermate che giungono dal Cairo. Secondo il Corriere della Sera titolava un'ora fa sul suo sito "Potere ai militari, Mubarak costretto a lasciare", la BBC invece sosteneva "Mubarak potrebbe dimettersi e trasferire i poteri al vicepresidente Omar Suleiman", e pare che in questo momento la TV egiziana stia trasmettendo un messaggio registrato del presidente stesso. Quali possibili scenari si aprono ora per l'Egitto? Quali le implicazioni strategiche per il Medio Oriente di quanto sta avvenendo? Commenteremo gli ultimi sviluppi, quanto sta accadendo esattamente in questo momento, questa sera, con due ospiti. E iniziamo con il primo ospite in collegamento. Esatto, Annalisa, cominciamo con un primo ospite che è già in collegamento con noi, Antonio Ferrari. Antonio, mi senti? Eccomi qua. Buonasera Antonio, grazie mille per aver accettato di intervenire nella nostra trasmissione. Antonio è giornalista, è stato già ospite di Giro di Boa lo scorso giugno, all'epoca che facciamo la puntata sulla Sidomo Frottiglia. Antonio è stato per più di 30 anni inviato al Corriere della Sera. Il Medio Oriente e l'area dei Balcani del Sud sono il suo pane quotidiano da oltre 25 anni. Antonio attualmente è editorialista da Atene e tiene settimanalmente la videorubrica sul Corriere.it "Voci dal vicino Oriente". Dunque, senz'altro Antonio è un interlocutore privilegiato. Dunque Antonio, una prima domanda subito diretta, visto che siamo tutti in attesa di questo, a quanto pare di questo discorso. Ci puoi delineare un tuo profilo di Mubarak, questo personaggio che ha gestito il paese per quasi 30 anni, che ha impedito il fondamentalismo islamico condizionasse l'Egitto, che grazie alla pace che era stata segnata con Israele ha mantenuto un importante ruolo di stabilità nella regione, stato elogiato, nonché foraggiato molto dagli Stati Uniti fino a 15 giorni fa, suo malgrado ha comunque mantenuto un regime in cui ha imbavagliato la stampa, la libertà di espressione, l'opposizione. Dunque c'è chi parla di un tiranno, c'è chi parla di dittatore, tu come lo definiresti? Ma io mi rifiuto di scendere in schematismi, secondo me, che sono fuorvianti. Poi fuorvianti perché di dittatori ne abbiamo visti di ogni tipo e forse ne continuiamo a vedere. È chiaro che io lo definirei un presidente di fronte, un uomo che per mantenere il potere ha utilizzato sicuramente dei mezzi non democratici, ha vessato gli oppositori, ha messo in galera tutti coloro che potevano in qualche misura mettere in discussione quel potere che derivava dalla sua appartenenza a quella elite militare che continua ad essere portante in Egitto. E forse vediamo che anche la rivoluzione così di Piazza Tahrir potrebbe portare a un nuovo atteggiamento complessivo dei militari. Ora, pensare che i militari siano soltanto il veicolo per arrivare a una democrazia più solida, di qui credo che ideologicamente ce ne corra. Comunque questo è l'uomo che aveva appunto questa faccia e poi come altra faccia quella di un uomo che ha saputo consolidare quella svolta coraggiosa fatta dal suo predecessore Sadat, vorrei ricordare che quando Sadat fu ucciso durante una parata militare il 6 ottobre dell'81, Mubarak era vicino a lui, era al suo fianco, generale Mubarak, e fu ferito, mentre Sadat fu colpito a morte. Raccolse l'eredità di Sadat, il presidente coraggioso che aveva fatto la pace con Israele, e devo dire la consolidò, ecco perché parlo di presidente bifronte. Certo, è un grigio, un signore grigio, un signore che viene dall'apparato, che è lontano, diciamo, da quell'idea, da quell'immagine, no, affascinante che può essere quello di un leader che fa parte di un paese, sono chiamato l'ultimo faraone, faraone per il potere, non certo per l'immagine, però anche un uomo che ha saputo veramente con ostinazione tenere botta, conservato questa alleanza con gli Stati Uniti d'America, suo punto di riferimento, anche in cambio di alcuni milioni di dollari annuali, di miliardi di dollari, di attrezzature militari, ma anche di altro, ed ha saputo mantenere vivo l'accordo di pace con Israele che il suo popolo non ha mai amato, ed ha saputo consolidare la stabilità dell'Egitto all'interno di una regione difficile come quella che va dal Nord Africa al Medio Oriente. Antonio, ti vorrei chiedere di spiegare ai nostri radioascoltatori chi sono le forze di opposizione in Egitto, perché da quello che si è potuto leggere, ovviamente ascoltare dai telegiornali, sembra che non ci sia una opposizione ben organizzata. Ovviamente abbiamo tutti visto El Baradei ritornare al Cairo, ci sono i fratelli musulmani. Chi sono e come sono organizzati? Quale potrebbe essere il loro possibile ruolo in un futuro governo? Non c'è il minimo dubbio. Che siano ben organizzati è molto in dubbio. Diciamo questo, che 30 anni e di più di regime hanno impedito alle forze politiche di opposizione di avere un ruolo. Mubarak ha emarginato, i fratelli musulmani non è stato il primo, di qualcuno dei suoi predecessori si era servito dei fratelli musulmani, e forse Mubarak ne ha, impedito l'espressione, anche la possibilità di diventare interlocutori, proprio perché lui non ha mai amato le opposizioni, sapendo benissimo che i fratelli musulmani rappresentano comunque una delle anime dell'opposizione, ma anche una delle anime del paese. È evidente che un paese laico come l'Egitto, o almeno come è stato voluto negli ultimi anni, è anche essenzialmente cardine di tutta la politica araba nella regione, deve tener conto di tutte le sue componenti, e lì è la debolezza di Mubarak, che non ha saputo, si è un po' lasciato trascinare dalla sua emotività politica, definiamola così. Mubarak non è uomo che ha saputo lasciar crescere un'opposizione, magari controllata, la lasciava crescere. Oggi sappiamo che i fratelli musulmani sono pronti a, come dicono i francesi, a tirer profit de ça, a cercare di approfittare della situazione, pur sapendo che hanno un consenso che non credo vada oltre il 22-25%. E io credo che quando i fratelli musulmani chiedono l'applicazione totale della Sharia, dubito, cioè della legge coranica che impone determinate regole, dubito che la maggioranza del popolo egiziano, di questo grande popolo, possa essere d'accordo. Poi abbiamo i laici, abbiamo quelli che hanno raccolto l'eredità di Nasser. Nasser è il primo grande presidente nazionalista dell'Egitto, che ha ancora un grande seguito popolare. Poi abbiamo forze liberali, ma io nelle forze liberali inserirei due personaggi che non fanno parte dell'apparato politico-militare, e cioè inserirei El Baradei, che è un uomo che ha trascorso gran parte della sua vita fuori dall'Egitto, cioè fuori dalle dinamiche politiche interne. E adesso è tornato e è diventato un punto di riferimento delle opposizioni. Ma io non dimenticherei neanche un altro uomo che non è nel quadro politico-militare del paese, che è l'ex ministro degli esteri e il segretario generale della Lega Araba, Amr Moussa, anche lui un liberale che potrebbe essere un uomo di transizione, un uomo diciamo un moderato tra la posizione più dura di al-Baradei e quella del possibile prosecutore della linea diciamo di passaggio dei poteri, e cioè quello Omar Suleiman, che è l'uomo sul quale puntano in tanti, non soltanto all'interno delle forze armate, ma io non so quanto le forze armate siano coese o siano divise in questo momento, e soprattutto da parte degli americani e anche dagli stessi israeliani. Questo è un uomo che conosce molto bene le dinamiche dell'area. Ecco quindi che vediamo tutte queste forze, è chiaro che i militari non li possiamo considerare forze di opposizione, anche perché i militari hanno espresso Mubarak, hanno espresso Suleiman e si preparano, magari con una faccia diversa, a gestire la transizione del paese. Antonio, in questo scenario vedi un possibile spazio, o esiste un possibile spazio, per la minoranza cristiana marronita, una minoranza che rappresenta il 10-15% circa della popolazione, parliamo di una popolazione di all'incirca 80 milioni di abitanti, che magari ogni tanto viene anche dimenticato quando si parla dell'Egitto. L'Egitto è un grande stato con appunto circa 80 milioni di abitanti, per cui una potenza. Parlavo di questa appunto minoranza cristiana marronita che alcuni giorni fa si leggevano alcuni articoli in cui si diceva che la minoranza aveva paura di questa protesta, e soprattutto che questa protesta sfociasse in un regime magari anche islamico. Sono questi timori fondati? Io credo che comunque nel regime di Mubarak, tu l'hai detto, un regime laico, per cui non c'era spazio per loro. Assolutamente, la minoranza cristiana copta, i copti sono storicamente una delle più antiche diciamo espressioni del cristianesimo. I copti non sono un'etnia, e questo è stato l'errore tragico nel quale è caduto anche l'Occidente con un eccesso di superficialità. Sono una minoranza araba perfettamente integrata all'interno della società egiziana. Ecco perché ci siamo tutti stupiti per quell'attentato, per quella strage contro la chiesa copta dei due santi Alessandria d'Egitto il 1° di gennaio, perché di fatto non è che sono dei cristiani da piccola minoranza come capita in altri paesi, per esempio penso all'Iraq, dove i caldei hanno avuto persino più ruolo durante Saddam Hussein, durante diciamo la presidenza di un dittatore evidente, di quanto non lo possono avere oggi mentre scappano dall'Iraq. Ecco che invece i copti hanno questa loro specificità ed hanno un legame molto stretto con le componenti musulmane della società. Ecco perché era improprio definire questi cristiani come diciamo alieni rispetto alla società complessiva del Cairo. Io capisco il loro timore oggi, soprattutto il timore del loro leader religioso, Papa Shenouda III, perché mentre con Mubarak erano stati considerati come una delle componenti essenziali, sappiamo, aperta parentesi, che soltanto i leader della comunità copta potevano arrivare soltanto a certi livelli di potere. Quello che ha avuto più potere politico è stato un ministro degli esteri aggiunto che si chiamava Boutros Ghali e che era appunto della minoranza copta. Oltre a questo non si poteva andare, discorso che riguarda anche altri paesi della regione, dove i cristiani, per esempio i giordani, hanno un loro ruolo e fanno parte dello staff del re, della regina, anche del governo, sono arrivati al Ministero degli Esteri, ma oltre a questo non possono andare essendo una minoranza. Ecco, quindi il legame con il regime c'era. Adesso qual è il loro rischio? Quello che temono? Quello che temono è un inasprimento in chiave militare, di un atteggiamento magari più intransigente che potrebbe metterli in enorme difficoltà. E in questo il paradosso è che dicono le stesse cose dei fratelli musulmani. Anche i fratelli musulmani hanno il timore oggi che si creino le condizioni di un colpo di Stato nel colpo di Stato, cioè quando i militari, non soltanto quelli che derivano, diciamo, che hanno espresso Mubarak prima e esprimono anche Suleiman, ma nuovi militari che in qualche modo si ritengono i più grandi custodi di quella che è la volontà popolare e quindi vogliono farsi garanti del passaggio. Ecco, quando i militari si fanno garanti di un passaggio, non so, non siamo ancora in Turchia dove questo è accaduto, ma insomma c'è una situazione molto più fluida, come ho sentito dire da qualcuno dei portavoce della Casa Bianca. Antonio, facciamo ora una pausa musicale per stabilire anche il collegamento con la nostra seconda ospite e ritorneremo in onda tra qualche minuto. Sì, Annalisa, un secondo, volevo semplicemente dire che ovviamente sono cristiani copti e non marroniti come erroneamente mi è uscito di bocca prima. Siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, in onda tutti i giovedì sera alle ore 21. Questa sera stiamo commentando e analizzando quanto sta accadendo in tempo reale in Egitto, dove dal 25 gennaio scorso ci sono manifestazioni e proteste contro il regime del presidente Hosni Mubarak. Abbiamo già in collegamento Antonio Ferrari, che è stato per più di 30 anni corrispondente per il Corriere della Sera, profondo conoscitore del Medio Oriente, quindi in questa prima parte di trasmissione abbiamo già avuto l'opportunità di sviscerare con Antonio alcuni temi. E Alessandra, dovremo ora avere in collegamento anche la nostra seconda ospite, se non sbaglio. Sì, esatto, Paola Cariddi. Paola, ci sei? Ci sono. Buonasera. E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Paola è giornalista e socia fondatrice dell'Associazione di Giornalisti Indipendenti Lettera 22. Dal 2001 al 2003 è stata corrispondente dal Cairo, coprendo Medio Oriente e mondo arabo. Attualmente è corrispondente da Gerusalemme, ha scritto nel 2007 per Feltrinelli Arabi Invisibili, che ha vinto il premio Capalbio 2008, e da cui ha preso spunto anche l'omonimo e seguitissimo blog. Nel 2009, sempre per Feltrinelli, ha pubblicato Hamas. Il volume è stato in seguito pubblicato anche in inglese da Passia a Gerusalemme Est nel febbraio del 2010. Annalisa, hai subito una domanda per Paola? Sì, subito una domanda per Paola. Paola, benvenuta, un saluto dallo studio di Bruxelles. Dunque, si diceva Paola corrispondente da Gerusalemme, quindi la prima domanda che mi viene in mente è quali umori si respirano in Israele? Mi sembra che il governo israeliano abbia finora mantenuto un profilo abbastanza basso e vorrei lanciare qualche tema di discussione, ovviamente sia per Paola e sia per Antonio, le implicazioni per le relazioni arabo-israeliane di quanto sta accadendo. Secondo voi esiste il rischio che un futuro governo in Egitto, ovviamente dipende da quale tipo di governo si formerà, possa denunciare il trattato di pace con Israele e possa avvicinarsi ad Hamas? Un altro rischio è se le dimostrazioni si estendessero alla Cisgiordania e a Gaza, ritenete che questo possa essere un rischio? Quale sarebbe la reazione di Israele verso possibili dimostrazioni? Paola. Ma intanto non direi che la posizione del governo israeliano, il profilo del governo israeliano sia stato basso, anzi vi è stato un sostegno immediato a Hosni Mubarak, vi è stata anche una fortissima critica all'amministrazione Obama, che aveva parlato immediatamente di transizione, di sostegno alla transizione, poi di quale transizione si può discutere. Ed è una posizione che Israele ha sempre continuato a tenere, tanto è vero che il capo del Foreign Office, William Hague, giusto appunto ieri ha chiesto a Israele di tenere invece un profilo più basso su quello che sta succedendo in Egitto, ed è la stessa richiesta che peraltro viene da una parte dell'intelligenza, l'intelligenza di sinistra israeliana, che chiede invece una profonda riflessione su quello che sta succedendo al confine sud di Israele. Questo perché? Perché immediatamente dopo il 25 gennaio, anzi direi dopo il 28 gennaio, la domanda che si è posta è stata una domanda all'intelligence israeliana, cioè perché l'intelligence israeliana non si è accorta di nulla di quello che stava succedendo in Egitto, ritenendo invece appena una settimana prima di quel del 25 gennaio che l'Egitto fosse stabile sotto Mubarak. È una domanda che si pongono anche gli israeliani medi, gli israeliani della strada, che chiedono: ma allora che tipo di intelligence abbiamo? Questo da una parte. Dall'altra parte invece è proprio l'israeliano medio che non conosce l'Egitto e non conosce il mondo arabo, e quindi una delle domande che sale dall'intelligenza pacifista, per così dire, è la seguente: ma Israele si sente medio orientale o no? O si sente forse più un appendice dell'Occidente e non conosce il posto in cui è e al quale appartiene, cioè il Medio Oriente? Antonio, cosa ne pensi? Ma sull'atteggiamento di Israele anch'io sono abbastanza d'accordo con Paola, cioè ho visto un atteggiamento ancora un attimino ondivago, cioè di ovviamente sostegno a Mubarak, questo si può anche comprendere, e non solo sostegno a Mubarak, ma in prospettiva sostegno forse ancora più convinto, quasi convinto, nei confronti di Suleiman, di Omar Suleiman, che è un uomo che gli israeliani conoscono bene, sia per il lavoro che ha fatto sul processo di pace, eccetera, e sia su tutte le operazioni fatte, diciamo, per cercare di, da una parte, di prevenire, quindi di essere durissimo nei confronti di Hamas, ma dall'altra parte di favorire quello che erano tutte le possibili componenti di dialogo, definiamole così, tra la parte laica palestinese di Fatah e quella confessionale, chiamiamola così, fondamentalista di Hamas. L'incontro che Suleiman ha avuto alla Mecca con il re saudita è stato un incontro importante, proprio perché si stava tessendo un qualche cosa tra i due componenti palestinesi. Ecco quindi che Israele si sente chiaramente più confortata. Prima si sentiva confortata con Mubarak, non dimentichiamo che la pace voluta dai leader, uno è anche morto, diciamo il presidente egiziano Sadat, non è stata mai una pace particolarmente calda né digerita dalla gente. Si è parlato di pace fredda, io la definirei pace glaciale, e questo va dato atto che Mubarak comunque, nonostante la pace glaciale, è riuscito, diciamo, per 30 anni a tenerla viva in qualche modo. E però dall'altra parte che cosa succede? Succede che la gente dice: vabbè, qual è stato il ritorno che abbiamo avuto? E allora torniamo alle ragioni di questa rivolta, o meglio le cause di questa rivolta, poi vedremo le conseguenze. Abbiamo avuto così una povertà crescente in un paese che tutte le grandi agenzie di rating internazionali elogiavano per la crescita, eccetera. C'ha ragione quello che dice: andiamo a vedere al mercato come stanno i prezzi e come vive la gente, forse avremo un'idea un pochino più corretta della realtà. Quindi forbice sempre più ampia tra ricchi o ultra ricchi, soprattutto quelli dell'apparato militare industriale, e poveri e ultra poveri. Abbiamo internet che ha avuto, io credo, un ruolo fondamentale, perché per la prima volta questi ragazzi, questi giovani si sono parlati, diciamo, da paese a paese, e io credo che dalla Tunisia siano arrivati molti messaggi agli amici egiziani, anche di altri paesi, e quindi questa è stata la seconda grande componente. La terza è il ruolo dei militari. Ora, io francamente devo dire, non so se Paolo è d'accordo con me, che io ci capisco sempre di meno, perché Mubarak è espressione del potere militare, poi con delle derive tutte sue ha cercato di imporre il figlio, e quello è stato un errore disastroso. Suleiman è espressione dello stesso potere militare. Adesso abbiamo, secondo agenzie, voci di gente che dice: ma i militari non si fidano, non vogliono affidare il potere a Suleiman perché la piazza dice che cambierebbe poco. Ma allora cosa è successo? Un qualche cosa di strano, non dico un golpe, ma una qualche pesante attrizione all'interno delle forze armate? Può la piazza, questa piazza generosa che ci ha colpito tutti, fidarsi completamente delle forze armate nonostante le grandi carezze che siano arrivate dal loro vertice? È quello che mi domando. Cioè, io ho paura, magari me lo dice l'esperienza, ho paura dell'eccessivo ruolo dei militari, perché anche il paragone con la Turchia mi sembra abbastanza improprio. In Turchia c'è stato un colpo di Stato, poi si è ritornati quantomeno alla dialettica politica, ma in Egitto è improprio perché? Perché in Egitto le altre forze politiche praticamente erano congelate, non esistevano, è un'opposizione da frigorifero, non è stata un'opposizione vera, e quindi sono forze politiche ancora tutte da costruirsi. Allora in questa fase dove voglio, che cosa succederà? Io francamente non lo so, sono confusissimo e anch'io ho la televisione accesa senza audio per aspettare il discorso di Mubarak, ma non so veramente esattamente oggi, in questo momento, che cosa dirà. Paola, volevo se posso intervenire e proseguire il discorso di Antonio, è vero, il vero buco nero, il vero, la vera sfinge, come è sempre stata in questi decenni, è proprio, sono proprio le forze armate, perché da una parte sembrano un po' quelle indonesiane, cioè non solo forze armate ma anche un settore industriale molto molto molto importante nell'economia egiziana. Paola, solo permetti un secondo, volevo giusto dare due dati a beneficio dei nostri radioascoltatori, giustamente sull'esercito, che l'esercito egiziano è il decimo esercito più grande al mondo, con circa mezzo milione di soldati, e riceve ingenti finanziamenti dagli Stati Uniti d'America. Quando si parla di ingenti finanziamenti si parla più di $1 miliardo. Prego, continua. Sono poco meno di $2 miliardi all'anno, che fanno parte del Trattato di Camp David del 1979. Le forze armate sono composte da circa 450.000 uomini, di cui 20.000 circa sono le guardie presidenziali, che quindi io staccherei da questo conto, e semmai in questo scontro di potere militare le metterei accanto a quelle circa 350.000 persone, 350.000 uomini che compongono la polizia e i servizi di sicurezza. Vuol dire che c'è su per giù una parità fra due corpi armati, per così dire, e che quindi secondo me tra ieri e oggi è andato in onda dietro le quinte uno scontro molto pesante fra Suleiman e le forze armate, il che non vuol dire che le forze armate siano del tutto a favore di quella piazza generosa di cui parlava Antonio, ed è lì appunto il dubbio, la confusione, la nebbia che noi abbiamo quando guardiamo l'Egitto. Secondo me c'è un dato però da mettere appunto nella discussione, ed è quello della differenza generazionale all'interno delle forze armate, cioè così come abbiamo visto dal punto di vista civile e politico una differenza fra generazioni, e cioè i giovani che guidano una rivoluzione, perché di rivoluzione si tratta, c'è secondo me una divisione all'interno delle forze armate fra generazioni più giovani e invece le generazioni, come dire, dell'età simile a quella di Hosni Mubarak, che dalle forze armate appunto viene, che sono più legate a Mubarak, mentre non sappiamo molto, non sappiamo quasi nulla di quella fascia di ufficiali e sottufficiali che poi sono i quadri anche consistenti dal punto di vista numerico. E per concludere con un dato storico, quando noi abbiamo visto questo strano rapporto, strano per una concezione europea, del rapporto fra civili e militari, cioè la gente sui carri armati, la gente che scriveva con i graffiti sui carri armati, dobbiamo sempre pensare a 1952 non tanto come a un golpe militare, cioè quello dei giovani ufficiali di Nasser, quanto alla sconfitta di una monarchia e di un protettorato britannico, e cioè questo sentimento, come dire, nei confronti delle forze armate nasce dal fatto che quelle forze armate sono state una forza anticoloniale all'interno dell'Egitto, e quelle che hanno portato un Egitto che era già in ebollizione dal 25 gennaio del 1952, la data la ricordo perché è questa rivoluzione è nata nel 25 gennaio come quella del 1952, ecco allora che bisogna pensare che il rapporto fra società e militari, pronto ad essere smentito dai fatti, nel senso che io non sono convinta che le forze armate saranno del tutto con la piazza, ma questo rapporto nasce da una storia che è una storia singolare, che è una storia nazionale. Vorrei chiedere ad entrambi gli ospiti che cosa Ne pensate del ruolo e dell'atteggiamento mantenuto dall'amministrazione Obama finora? Sicuramente l'Egitto rappresenta la maggiore crisi in politica estera attraversata finora dal presidente Obama. Stati Uniti che si sono sicuramente trovati in conflitto tra il supporto verso comunque un alleato fedele da 30 anni che ha mantenuto la pace con Israele, un fattore di stabilità nel Medio Oriente, e supporto alle rivendicazioni popolari secondo i principi ovviamente su cui è fondata l'America. Sono tanti gli editoriali e gli articoli che sono circolati in questi giorni che hanno parlato del dilemma tra perseguire la stabilità o perseguire la democrazia. Per esempio un editoriale del professor Sartori qualche giorno fa che concludeva: viviamo in un mondo pericolosissimo che dobbiamo fronteggiare non da missionari ma scegliendo il male minore. Quindi vorrei lanciare questi temi di discussione ai nostri ospiti. Paola, vuoi cominciare tu? Ma sì, io comincio, mi dispiace, ma non sono per niente d'accordo con Sartori, e i ragazzi di Tahrir dimostrano che lui non abbia capito questo cambiamento fondamentale, e cioè che quella che lui ritiene una realpolitik è invece una strategia miope, assolutamente miope, che non tiene conto della realtà. Cioè, quando si fa realpolitik, questa cosa credo che Antonio l'abbia letto anche sul mio blog, quando si fa realpolitik bisogna conoscere profondamente la realtà, altrimenti non si fa politica. Quello che sta succedendo è una rivoluzione, ed è una rivoluzione che comincia dal centro del mondo arabo, e quel centro Obama lo sa che è il centro, tanto è vero che quando si insediò, pochi mesi dopo il suo insediamento, lui andò a fare il più importante discorso nei confronti del mondo arabo e del mondo musulmano alla Cairo University, all'università più importante, quella statale, del Cairo. Quindi Obama sa benissimo che quello è un posto fondamentale anche per la sua strategia di cambiamento vero, evidente nei confronti dell'amministrazione Bush e della strategia dell'amministrazione Bush verso il Medio Oriente, o come lo veniva definito, il grande Medio Oriente. Il dilemma di Obama nasce secondo me però anche dal fatto che i consiglieri che ha avuto forse non sono stati quelli giusti quando si tratta di mondo arabo, eppure i think tank democratici o di area progressista erano quelli che da anni dicevano: state attenti, non è vero che l'Egitto è stabile, l'Egitto è instabile, le violazioni ci sono violazioni dei diritti umani e civili, ci sono brogli elettorali che lo stesso ambasciatore Ricciardone nel 2006 in un cablo rivelato da Wikileaks indicava come una cosa molto importante. E quindi la vera questione è: Obama secondo me ha cambiato in corsa anche la sua posizione nei confronti dell'Egitto, di quello che stava succedendo in Egitto, perché ha dovuto ricostruire secondo me molto velocemente la rete delle persone che veramente sapevano qualcosa sull'Egitto. Un aneddoto che poi non è nemmeno tanto una curiosità ma la dice lunga, è che adesso Obama è sintonizzato non su altre televisioni ma su Al Jazeera English per capire quello che sta succedendo in Egitto. Il problema è la conoscenza, così come per Israele anche dentro gli Stati Uniti il problema è la conoscenza del mondo arabo, l'invisibilità di quello che sta succedendo. Antonio? Sì, io stavo in questo momento, mentre ascoltavo Paola, stavo guardando Al Jazeera, ma non è che abbia in questo momento, anche se Al Jazeera è una delle fonti più informate su quanto sta accadendo al Cairo, non è che in questo momento ci stia dando molto di più, parlo della stretta attualità, più attualità di questo si muove, siamo in attesa di un discorso che non arriva. Dall'altra parte, a proposito di Obama, dobbiamo riconoscere una cosa. Secondo me, io non credo che, nonostante così i messaggi Wikileaks degli ex ambasciatori, degli ambasciatori attuali, che prospettavano una situazione molto diversa da quella che si voleva credere. Questo è un dato di fatto, questo l'hanno fatto, eccetera. Secondo me, io temo che molto spesso questi messaggi non siano stati colti e si sia privilegiato quella che era la certezza del passato. a Obama dobbiamo riconoscere una cosa, che fare i passi che lui ha fatto nei primi 2 anni del suo primo mandato è comunque in ogni caso un atto di coraggio. Secondo me una conoscenza profonda del Medio Oriente non ce l'ha Obama, come non ce l'ha avuta nessuno dei presidenti che lo hanno preceduto. Jimmy Carter forse aveva un atteggiamento più positivo, però Jimmy Carter è stato uno di quelli che hanno favorito, diciamo, il ritorno di Khomeini, almeno su questo punto Paola concorderai, beh, in fondo io credo che Sartori avesse ragione, certo, come si chiama, lo Shah, no? Era un personaggio impresentabile, tra l'altro la cosa curiosa è che lo Shah quando scappa in esilio, dove scappa? Scappa in Egitto naturalmente, ma per favorire l'ingresso di Khomeini. Khomeini era arrivato con tante speranze, è quello che mi fa paura, che l'esperienza mi dice attenzione, sempre attenzione, non lasciarti abbagliare da nulla. Era arrivato con tante speranze, le opposizioni erano pronte a aiutarlo, i comunisti, i socialisti, tutte le forze, diciamo, libertarie del paese, e poi purtroppo sappiamo come è andata a finire. Certo non è un regime libertario quello che sta guidando l'Iran oggi, e quindi io direi che il rischio qual è per l'America? Questo atteggiamento ondivago non fa che dimostrare che non c'è una, diciamo, non si è assimilata alla cultura di quella parte del mondo. Sono stati ad ascoltare mille cose, avevano i loro rapporti che erano sicuramente tra i più accurati, come Wikileaks ha dimostrato, però dall'altra c'erano delle convenienze, c'erano anche delle paure, c'erano le lobby che stanno in America vicine al paese confinante che ha fatto la pace con l'Egitto, cioè Israele, che poteva condizionare, e quindi si è arrivati, diciamo, a ridicolo quasi dell'altro giorno, quando un portavoce americano dice: ah no, Mubarak deve restare, e la Casa Bianca, un altro portavoce dice: no, guarda, quello sta esprimendo valutazioni personali da parte dell'unica grande superpotenza rimasta. Beh, questo mi ha lasciato interdetto, perché questi errori non si possono fare. Se ti chiami Stati Uniti d'America hai degli interessi enormi, sia geopolitici sia strategici, in quella regione. Siamo ormai arrivati in conclusione, dunque non ci resta che il tempo che per un'ultima battuta. Mi volevo riferire ad una frase scritta da Paola sul suo blog recentemente, in questi giorni. La frase è la seguente: il popolo egiziano non sentiva il paese come suo perché si sentiva suddito e non cittadino. Dunque vi do 30 secondi a testa per chiedervi una previsione: qual è il prossimo popolo che vorrà sentirsi cittadino nel Medio Oriente? Paola? Ma potrebbe essere l'Algeria, potrebbe essere la Libia. Ce ne sono parecchi di popoli in Medio Oriente e in Nord Africa che volentieri ritornerebbero cittadini piuttosto che rimanere sudditi. Può essere lo Yemen, può essere, anche se sembra strano, anche la Giordania, anche se la Giordania ha una composizione talmente particolare della popolazione, fra una metà palestinese e un'altra metà giordana e un'ultima immigrazione irachena che conta 1 milione di persone, che rende questo paese instabile anche per altri motivi. Però il desiderio della cittadinanza e questo segno della propria dignità che va riconquistata, questo è un messaggio che non deve scomparire, nonostante le nostre paure su un'ipotesi khomeinista all'egiziana o meno, perché quello che Sartori dimentica, che invece ricordava Barbara Spinelli, che prima di Khomeini c'era stato Mossadegh e che invece la CIA aveva assolutamente, come dire, fatto in modo che questo esperimento, quello di Mossadegh degli anni 50 in Iran, l'esperimento liberale, morisse perché bisognava sostenere lo Shah. È tempo, a questo punto io credo, che gli apprendisti stregoni se ne restino a casa e che lascino fare la politica ai popoli che sono lì, che non sono sudditi ma devono essere cittadini nonostante quello che succederà. Credo che la loro necessità di essere cittadini valga il prezzo, perché prima di essere cittadini sono stati torturati e incarcerati, e questo non può giustificare niente, neanche l'appoggio a, come dire, al dittatore di turno. Antonio, un'ultima battuta? Sì, ma comunque voglio dire, gli americani non hanno, io ripeto, una grande, non ha assimilato le grandezze del Medio Oriente. E io credo, per fare una previsione, non voglio addentrarmi in previsioni perché sarebbe quasi uno sciocco farle oggi. Penso che io, come Paola, io metto davanti la Libia, perché mi ha molto colpito la paura del colonnello Gheddafi, l'Algeria, anche il mondo palestinese. Mi risulta che anche a Gaza ci siano dei fermenti e non favorevoli ad Hamas, oltre a quelli non favorevoli a Fatah in Cisgiordania, e poi c'è la Giordania con quella situazione particolare, c'è lo Yemen, ci sono tanti. Volevo solo dire che in questo momento, più diretta di così, Mubarak sta parlando alla gente, ma non so ancora che cosa abbia detto. Annalisa, hai ancora domande? No, ancora domande, purtroppo dobbiamo chiudere, ovviamente dico purtroppo perché la discussione è stata veramente molto interessante. Vorrei ringraziare i nostri ospiti per il loro interessantissimo contributo, Antonio Ferrari e Paola Caridi, e speriamo di rivedervi presto ai nostri microfoni. Grazie e buon lavoro. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Siete tornati all'ascolto per quella che è l'ultima parte della trasmissione. Questa sera abbiamo parlato di Egitto, abbiamo commentato in tempo reale quanto sta avvenendo, prima con due giornalisti. Antonio Ferrari e Paola Caridi, esperti di Medio Oriente, e ne parliamo adesso con una ospite qui in studio e ascolteremo la sua testimonianza. La nostra ospite è Silvia Crescimbeni. Buonasera Silvia, benvenuta nello studio di Giro di Boa, prima di tutto. Grazie, buonasera a voi, grazie per avermi qui. Silvia lavora al Cairo per un'organizzazione internazionale ed è stata rimpatriata a Bruxelles a partire dal primo febbraio scorso, quindi avremo l'opportunità di chiedere a Silvia le sue impressioni. Te lo aspettavi? Prima domanda che mi viene in mente. Domanda a 300 milioni. Non se lo aspettavano né la CIA né Israele, quindi è un po' difficile anche per noi immaginare quello che sarebbe successo. Nel senso, te lo aspettavi magari, o avevi qualche sentore magari in conversazioni con amici egiziani? Ma diciamo che la Tunisia ha dato una grande spinta di coraggio alla gente. Ci sono stati già un po' di segnali con alcuni incidenti che sono avvenuti nei giorni prima, che hanno preceduto il 25 gennaio, la grande manifestazione del giorno della festa della polizia. E ci sono stati episodi di persone che si sono date fuoco, seguendo l'esempio di quello che era successo in Tunisia, e da lì diciamo che una tensione che era latente ha iniziato a manifestarsi. Ecco, secondo me un po' non se l'aspettava nessuno questo tipo di risposta, perché comunque gli egiziani sono sempre stati abbastanza, un popolo abbastanza tranquillo, molti analisti hanno detto persino passivi, non concordo, ma comunque nessuno si aspettava questa grande affluenza nella prima manifestazione del 25, e sicuramente nessuno si aspettava la reazione che c'è stata poi il 28 gennaio con la polizia che sparava sulla folla. È stato uno spettacolo un po' triste da vedere, che poi è sfociato anche in quello che è successo il 2 febbraio con il movimento di Pro Mubarak, che è saltato sulla folla in abitante Harir. Non sono stati bei momenti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Alessandra, quindi ti passo la parola per la prossima domanda alla nostra ospite. Sì, buonasera Chiara, anzitutto. Volevo sapere cosa pensi del futuro, qual è la tua previsione? Il Presidente sta facendo ora il discorso, presumo che sarà un discorso abbastanza lungo. Una delle sue battute a quanto pare è stato: ascolto il volere della piazza, dei giovani che stanno in piazza. Secondo te come andrà a finire, una tua previsione? Ma ovviamente scusami, mi sono confusa con il nome. Silvia. Non ti preoccupare. Io sono innanzitutto curiosissima di sapere che cosa sta dicendo il Presidente. Penso che sono nella situazione, paragono un po' stupido, ma di quello che deve stare chiuso durante la finale dei mondiali con l'Italia che sta giocando, So che è un paragone un po' superficiale, però sono veramente molto ansiosa di sapere cosa sta dicendo il Presidente, cosa ci sarà nel futuro. Anche questo è difficilissimo, difficilissimo da immaginare. Perché ci sono quello che tu speri. Anche questo è difficile da dire, perché non è assolutamente chiaro che giochi di potere ci sono dietro da nessuna delle parti coinvolte. E non è chiaro quale sarà il ruolo di Soleimani, non è chiaro, Soleimani è anche il primo ministro Shafik, non è chiaro soprattutto il ruolo delle forze armate. Questo, come era stato sollevato anche in precedenza durante la puntata, è preoccupante. E da un lato hanno dato questo senso di stabilità, la gente era un po' rassicurata dopo i problemi con la polizia, hanno dato questo senso di sicurezza, di ordine, però non è mai bello avere un esercito che controlla un paese. Non è chiaro qual è il gioco degli americani e qual è il gioco di Israele. È vero che gli americani hanno capito forse molto poco della regione, quindi forse non sanno neanche come reagire, però non li sottovaluterei. Quindi, non sapendo esattamente quali sono i giochi di potere dietro, non è facile anche augurarsi uno scenario piuttosto che un altro. Quello che mi farebbe paura, che mi dispiacerebbe molto, che tutto questo fosse stato inutile, perché effettivamente il governo ha avuto abbastanza tempo per pianificare una reazione e questa reazione potrebbe essere abbastanza furba da soddisfare in facciata le richieste della gente, della piazza, ma mantenendo in realtà le cose come erano prima. Come diceva Tomas Lampedusa, bisogna che tutto cambi perché tutto resti uguale, e questo sarebbe veramente, questo farebbe veramente molto male, soprattutto pensando alle più di 300 vittime, alle persone, alla sofferenza delle persone anche adesso, e soprattutto pensando al potenziale di cambiamento di questa occasione, questa opportunità che gli egiziani si sono presi con grande coraggio, devo dire, con grandissimo coraggio. Quindi veramente è molto molto difficile immaginarsi che cosa ci sarà dopo. Sicuramente un Egitto che non sarà mai più quello di prima, se prima era un paese abbastanza tranquillo, abbastanza che si sapeva destreggiare in questi giochi di poteri regionali, adesso almeno per i prossimi mesi la situazione sarà sicuramente molto tesa. Staremo a vedere, inshallah. Silvia, quindi tu eri al Cairo dal 25 gennaio, giorno in cui sono scoppiate le proteste, fino qui al 1 febbraio, giorno in cui sei stata rimpatriata a Bruxelles. Esattamente, non volevo andare via. Dove eri? Che cosa hai visto? Ti sei mai sentita in pericolo? Hai avuto modo di parlare con amici egiziani in quei giorni? Che cosa ti hanno raccontato? La tua percezione di quei giorni, quando eri lì? Ma sì, la mia percezione è pur sempre, lo ammetto, da un punto di vista privilegiato, perché comunque il punto di vista di un espatriato è sempre comunque protetto e tutelato. Il punto che...